La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, dagli studi di Milano della Radio vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast, come sempre Oscar Giannino, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per osservazioni, richieste, approfondimenti, critiche, stroncature, oppure proposte di temi e voi stessi in trasmissione per raccontare storie di interesse pubblico, del buono o del cattivo o di ciò che funziona e soprattutto non funziona ancora nel nostro paese secondo voi, e vi dico subito che oggi è una puntata di quelle che di tanto in tanto dedico a un libro, sì, lo ammetto, un libro che mi è piaciuto, quindi è una scelta del tutto soggettiva, ma lo faccio tra i tanti libri che mi sforzo di leggere quando mi sembra che questo libro abbia un interesse pubblico generale, a dire la verità. Spesso, lo sapete, scelgo libri un po' provocatori, cioè credo che fondamentalmente una delle grandi virtù nel dibattito pubblico sia di chi ha cose da dire, titoli per poterle dire, ma lo faccia in una maniera che è quella diretta del sollevare con coraggio alcune questioni, e il libro di oggi è esattamente un volumetto, perché sono 160 paginette scritte in corpo grande, non è malgrado l'autore un testo ricco di note e rinvii a bibliografia, cioè non è in forma di saggio scientifico, è un pamphlet, come si direbbe in termini settecenteschi, ne ha lo spirito, ne ha l'intenzione, ed è da parte, scritto da parte del più grande, più importante genetista italiano che insegna alla facoltà, e mi scappa da ridere, poi capire subito perché, di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, e che ha guidato per anni e anni il laboratorio di ricerca in biologia molecolare dello sviluppo. Sto parlando del professor Edoardo Boncinelli, che ringrazio per essere ai nostri microfoni. Buonasera, grazie a voi. Il titolo del libro è L'infinito in breve, editore Rizzoli, Inciampi e contrattempi della scienza. La particolarità di questo libro, per chi avesse letto i precedenti libri di Boncinelli, tutti taglienti a dire la verità, tipo La scienza non ha bisogno di Dio, che era di 4 anni fa, oppure Contro il sacro del 2016, ecco, rispetto agli altri, questo è deliberatamente scelto e realizzato in forma di aforismi per capitoletti, cioè nella vecchia formula difficilissima per essere efficace, degli breve sentenziosi massime che appartengono alla protostoria della letteratura, cioè quella sapienziale, per così dire. Ecco, è un po' come se fossero i numeri dei i proverbi della Bibbia, il libro dei proverbi, non so se avete presente, che in realtà non sono proverbi ma erano regole generali per la vita secoli e secoli prima della nascita di Cristo nei diversi regni all'epoca della terra promessa realizzata, per così dire. Di terre promesse realizzate in terra non ce ne sono, e in questo libro il professor Boncinelli, coerente alla sua convenzione di fondo, non viene meno a provocarvi, cari ascoltatori, ma spero cari lettori, da una molteplicità di punti di vista. Allora io gli faccio delle domande secche e spero di darvi l'idea. Per chi non conoscesse Boncinelli, ovviamente stiamo parlando di uno scienziato convinto della irriducibile, come devo dire, inconciliabilità di scienza e fede, convinto del fatto che le verità della scienza sono vere anche se appaiono false, come scrive, mentre quelle delle altre discipline, a cominciare dalla fede, sono false anche se sembrano vere, e così via. Detto tutto questo, allora, professor Boncinelli, lei dice che la scienza senza determinismo non è pensabile a un certo punto, è corretto? Sì, la scienza classica, perché ormai è cambiato tutto per quanto riguarda i tavoli e le sedie, la scienza è deterministica. Per quanto riguarda gli elettroni e i protoni non lo è più. Non lo è più, però lei capisce che chi è in ascolto, sapendo o avendolo appreso adesso, che lei è un genetista, dice determinismo più genetista, 1 più 1 fa 2, siamo alle prese con qualcuno che in nome della superiorità della scienza pretende di fare esperimenti di modifica del genoma umano. Che risponde? Rispondo che il determinismo ormai sappiamo che non è mai 100% e non l'è mai stato. Esiste un determinismo di una certa percentuale, e se noi vorremmo cambiare il mondo come lo stiamo cambiando da 3-4 mila anni, qualche cosa otterremo, ma bisogna stare attenti perché a volte si piglia rischi per fiaschi. Senta, io amo molto i gatti ed è per questo che non ho la prevenzione contro gli OGM. Lei a un certo punto scrive: questo è un paese senza nucleare, contro gli OGM di qualunque tipo, adesso anche contro i vaccini, è un paese medievale. Però sa che queste tre cose che lei mette in fila in Italia sono totalmente impopolari. Qual è il suo contributo non solo a dichiararlo assertivamente che è un errore, ma per tentare di convincere la gente che è un errore? Guardi, il motivo per scrivere aforismi, oltre a divertirsi, è quello di poter dire la propria, quello di cui si è convinti, senza urtare troppo direttamente la suscettibilità, visto che oggi certe cose non si possono dire. Non si può dire la cosa sui vaccini, ma penso che ormai tutti abbiamo capito che senza vaccini saremmo tutti ammalati. Non si può dire sugli OGM, ma sicuramente gli OGM non sono pericolosi e saranno il cibo di domani. Per quanto riguarda il nucleare, certamente è pericoloso, ma noi ormai da anni e anni paghiamo la nostra energia carissima perché altri paesi più intelligenti di noi, come la Francia e la Slovenia, hanno i reattori nucleari. Per chi non avesse capito la binata amo i gatti e quindi gli OGM, vi faccio presente che i gatti, come i cani, sono stati selezionati da noi esseri umani per secoli e secoli e millenni. Poi non so se vi sfugge, ma questo è esattamente quello che è avvenuto. Lei a un certo punto dice, io sto saltabeccando tra i vari temi, la scienza è un'arma. Ma gli italiani sono pacifisti. È ovvio che in questa frase c'è concentrata una carica molto polemica, perché lei sta dicendo gli italiani sono contro la scienza e non si rendono conto di a che cosa stanno rinunciando. Perché? Vabbè, è una battuta. In realtà, leggendoli tutti, mi rendo conto di essere un po' troppo cattivo con gli italiani, perché forse tutto il mondo è un po' babbeo, non solo gli italiani, ma certo, vivendo in Italia e frequentando i cosiddetti social network c'è da farsi cadere le braccia, cioè c'è un livello di cultura soprattutto, ma anche di capacità di capire bassissimo. Per cui la mia battuta non è naturalmente che io sono favorevole alla guerra, la mia battuta è che io sono favorevole ad usare l'intelligenza e in particolare la scienza, che è la figlia dell'intelligenza. Però parlandoci fuori dai denti, questa è la causa di tutto questo, e quindi questo ne è l'effetto di un colossale storico errore di impostazione dell'intero sistema formativo, dell'offerta formativa pubblica nel nostro paese pluridecennale. Guardi, io ne ho sentite di tutti i colori su questo tema e penso che un pochino abbiano ragione tutti. Però non c'è dubbio che l'Italia è un paese spiritualista, non dico religioso, dico spiritualista, per cui tutte le spiegazioni non ovvie sono vere, tutte le spiegazioni ovvie sono false. Noi cerchiamo sempre le spiegazioni in cose che non si vedono e trascuriamo le spiegazioni in cose concrete e tangibili. Lei associa, nella ripulsa argomentata, fuori dalla scienza, come se fossero sullo stesso piano la fede e la psicanalisi. Dicono entrambe si fondano sul presupposto che tutte le cose abbiano una causa perfettamente conoscibile che è diversa da quella che però noi possiamo riprodurre e sperimentare. Perché questo accostamento? Beh, sono due campi chiaramente diversi, però nella mia avventura, nella mia biografia, io ho frequentato e frequento tuttora tantissimo la psicanalisi, per cui per me la psicanalisi è evidente come era evidente la religione per tutti gli italiani. La psicoterapia, cioè la capacità di interagire col paziente e di parlare dei suoi guai, è una pratica utile ed efficiente. La psicoanalisi come teoria, Freud, Jung e compagnucci, è completamente errata, come ho scritto tante di quelle volte che mi sono stufato. Lei dice di provare i brividi in un paese o comunque in un contesto culturale, non solo in Italia, ma insomma vasta parte dell'Occidente, che preferisce Freud a Darwin. Fa spavento, perché Freud è un grandissimo scrittore, certamente era una persona positivista e positiva, cioè, però diciamo la verità, quello che lui ha ingarrato, bene, quasi nulla. Quello che lui ha ingarrato, nessuno lo ha perfezionato, mentre Darwin in 150 anni è stato accresciuto, dettagliato, commentato da tantissimi, anche da persone anonime, e questa è la differenza abissale che c'è tra le pseudoscienze come la psicanalisi e le scienze come la biologia. Però come la mette con grandissimi cosmologi di, voglio dire, di levatura indiscutibile dal punto di vista degli apporti che hanno dato scientificamente alla loro branca del sapere, che continuano però a non riuscire a fare a meno personalmente all'idea che l'universo abbia una causa prima, una mente organizzatrice, cioè una finalità. Ce ne sono tanti, lei ne cita anche alcuni in questo libro. Non ce ne sono tanti, ce ne sono alcuni i quali sperano di avere i centinaia di milioni che la Fondazione Templeton dà agli scienziati che conciliano scienza e religione. Gli scienziati che conosco io non credono, o comunque l'importante non è se uno crede o non crede, l'importante è che quando fa lo scienziato non si faccia interferire dalle sue convinzioni. Poi quando va a casa, si guarda allo specchio, va al cinema, dorme, crede quello che gli pare. Non è che in sé per sé ci sia qualcosa di male nel credere. Il male sta nel fatto che il credere possa interferire col tuo modo di ragionare. Però mi scusi, nei libri, nei manuali che girano ancora oggi dovunque, in ogni liceo, in istituto superiore italiano, gli studenti quando iniziano il corso di filosofia, storia della filosofia antica, a seconda naturalmente di chi sia l'autore del manuale, indirizzo, ma trovano sempre nei primi capitoli che grazie ai filosofi greci della Ionia, poi agli Eleati e così via, si pongono i fondamenti di una filosofia naturale che è alla base in realtà delle scienze naturali. Lei invece ha una repulsa totale verso la filosofia, anche se però alcuni iniziali sviluppi fondamentali della matematica complessa, che ne so, per esempio porsi il problema di come calcolare l'area di una funzione, nascono e vengono sviluppati proprio da quegli antichi filosofi greci. E allora quando arriva questa rottura, vista la sua repulsa totale verso la filosofia? La mia non è una repulsa totale, semmai è un amore tradito, perché io ho cominciato dalla filosofia finché poi mi sono cadute le braccia. Quindi la filosofia è una cosa bellissima. I filosofi non sono tutti persone conseguenti, ma comunque se vogliamo fare una distinzione storica, ben venga la filosofia, soprattutto la filosofia naturale, fino all'Ottocento, quando non ci dimentichiamo che Leopardi chiamava filosofia la scienza e che la prima traduzione di Darwin chiama Darwin grandissimo filosofo. Dove si è consumata la rottura drammatica è stata nella metà dell'Ottocento, in cui prima con Darwin e poi con la fisica quantistica si è visto che tutto quello che ha sempre detto la filosofia non solo non è vero, ma ci impedisce di capire esattamente come stanno le cose. Quindi se parliamo della filosofia del 400, 500, 600, non la considero importantissima, ma non è deleteria. La filosofia oggi per le scienze, soprattutto per alcune, ma soprattutto per la psicologia, è deleteria. Allora, ci torniamo tra un minuto, intanto pausa per l'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati dopo l'informazione sul traffico con Edoardo Boncinelli, più grande genetista italiano, autore di un medesimo libro che io vi invito davvero a leggere perché è in forma aforistica, tagliente, provocatoria, ma in linea con il pensiero di questo grandissimo scienziato italiano. Il titolo del libro è L'infinito in breve, Rizzoli Editori, Inciampi e contrattempi della scienza. Lei però a un certo punto, professor Boncinelli, prende anche un po', almeno io ho avuto l'impressione, ma probabilmente perché non abbastanza dotato come suo lettore medio, di uno scherzo intellettuale, ci prende un po' in giro, perché a un certo punto c'era un capitolo da cui mi aspettavo tantissimo, dire la verità, esempi di infinito, e lei fa degli esempi che mi hanno, cioè alcuni fatto sorridere, ma mi hanno lasciato completamente perplessi, a cominciare dall'iniziale, come esempio infinito, essere il più biondo dei pioppi, una cosa di questo genere. Cioè, che cosa diavolo vuol dire? L'infinito è uno dei concetti su cui la matematica astratta ha dovuto lavorare di più all'inizio, ed è una grande acquisizione l'idea di lavorare sul concetto di infinito, cioè sono avanzamenti come quelli del calcolo integrale, differenziale e così via. Perché l'ha presa a ironia questa cosa del capitolo sull'infinito? Perché l'infinito nella vita di tutti i giorni è andare, correre, saltare, quindi quelli sono esempi di infinito, però per metafora si può indicare sia il verbo sia qualcosa che non conosco e che non c'è, perché l'infinito non c'è. Dica la verità, nel capitolo sulla democrazia lei dimostra di essere un grande scettico, non voglio dire un elitista. Attenzione, quando parliamo di elitisti stiamo parlando di gente come Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, la grande scuola di scienza politica italiana a cavallo tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, che era faro mondiale in questo. Però lei a un certo punto dice, vabbè, insomma, la democrazia, se guardiamo l'Atene antica, avevano gli schiavi, erano pochi, perché oltre una certa misura la democrazia secondo lei non può funzionare, punto, e soprattutto uccisero Socrate. Ma insomma, non è che uno può avere una grande idea della democrazia se questa è la culla e la sintesi. Ma la democrazia, come disse Churchill, ha tanti difetti, ma è la cosa migliore che abbiamo. Io sono della stessa opinione e penso che è arrivato il momento, visto che siamo diventati 7 miliardi, di ripensare dalle radici il concetto di democrazia, perché ha un problema di scala. Cioè, quando si è pochi funziona benissimo, quando si è tanti funziona sempre peggio, come si vede ormai nelle nazioni del mondo. Ma uno che la pensa come lei, di fronte al fatto che votino esattamente coloro che lei descrive nel libro, ce l'ha ripetuto prima, sono afflitti da ignoranza abissale, opinioni di pancia e così via, come fa a riconoscersi in un sistema Attenzione, non è che ci sono persone che hanno idee giuste e persone che hanno idee sbagliate. Purtroppo l'osservazione dimostra che la stessa persona ha 40 idee giuste e 40 idee sbagliate. Quindi non è che io posso impedire a qualcuno di votare, perché purtroppo anche nelle persone migliori c'è una quantità di idee sbagliate che mi farà pagare un pegno. E fa pagare un pegno, e questo è la scuola di public choice in cui mi riconosco anch'io, infatti per questo. Come si distinguono nettamente le scienze, quelle in cui crede lei, dalle diverse discipline in realtà umane che come l'economia si sono dotate nel tempo di un apparato di formalizzazione matematica formidabile, che anche secondo me non sono scienze ma che pretendono spesso di essere coi risultati che vediamo? Guardi, la matematica è uno strumento meraviglioso, ma da solo non può dare la patente di scientificità. È scientifico quello che è verificabile, oppure, come qualcuno preferisce dire, che è falsificabile. Un'affermazione che è sempre vera qualunque cosa succeda non è vera. E il problema è che l'interazione di milioni di individui, che è ciò che caratterizza i mercati tutti i giorni, rende in realtà la formalizzazione matematica servita da alcuni modelli che sono, per così dire, non replicabili nella realtà per definizione. Tutti i modelli di equilibrio economico sono degli exempla ficta, come si chiamano i latini, non hanno a che vedere. Per andare in cattedra, ma non per risolvere il problema. Esatto, per andare in cattedra, no, ma questo quanto mi piace la cosa che ha detto. Ma lei come se l'è cavata, avendo avuto, immagino, devo darlo statisticamente per certo, lei avrà avuto tantissimi studenti nelle sue discipline, magari formidabili, anche molto dotati, ma che credevano profondamente, che avevano la fede come un punto di riferimento della vita. E lei con le idee che ha, come si è comportato con loro? Non tanti, perché mediamente i fisici... E i matematici credono, ma i biologi che credono sono pochissimi. Non mi chieda perché non lo so. Ah, questa però è una... Statisticamente lei ha rilevato che è così. L'osservazione l'ho fatta empirica. In 50 anni, quindi. Beh, ha una sua fondatezza in 50 anni, per così dire. Direi di sì. Ma la risposta che dà a questa domanda, i fisici credono di più, i biologi di meno, dopo 50 anni se la sarà apposta. Che qual è la risposta? Sì, perché loro vivono nelle nuvole. I biologi, fisici e matematici vivono nelle nuvole. I biologi, che sono meno intelligenti, vivono per terra. Però per secoli, dai tempi di Galileo in poi, insomma, studiamo il Galileo di Brecht quando siamo giovani, l'idea era che fosse l'apparato, il potere temporale della Chiesa, il braccio secolare che obbediva alla Chiesa, il vero impedimento alla ragione, alla scienza, alla verificabilità, alla peer review su cui si fonda appunto le discipline scientifiche. Invece la Chiesa non conta più niente, e però lei dice che è tale quale prima la faccenda. Come mai? Secondo me si è radicalizzato, perché i seminari si vuotano, le chiese si vuotano, ma i pochi che rimangono diventano più cattivi, più agguerriti, più scafati. Ah, ecco. E quindi alzano la voce, e chi alza la voce sta per perdere. Chi alza la voce sta per perdere. Io direi che su queste parole spero che abbiate capito che anche la sintesi delle domande e delle risposte era fatta apposta per indurvi a leggere, ma questo è lo spirito, per me straordinario, del professor Edoardo Boncinelli e dei suoi contributi in tanti anni, non solo alla scienza italiana, ma al dibattito pubblico italiano, per interrogarci sulla nostra irrimediabilmente troppo elevata propensione istintiva antiscientifica, che è diventato un tratto fondamentale del dibattito pubblico del nostro paese, la versione ai numeri, le interpretazioni che prevalgono sui fatti, e così via. Pensateci bene leggendo questo libro, perché vale la pena di comprarlo e di leggerlo, non solo per rendere tributo a un grandissimo scienziato italiano, ma anche a chi non si è tirato indietro, non lo ha fatto per cattedra, non lo ha fatto per carriera, dall'esprimere con grande chiarezza quello che pensa, per criticare del nostro paese, dell'Occidente, di tante storture che continuano a purtroppo deviarci dai buoni pensieri. Grazie al professor Edoardo Boncinelli, continuate su Radio 24.